hanno rinforzi da mettere dentro, capito? È strutturata bene la mappa, non c'è niente da fare, è un'antenna eccezionale. Infatti molti radioamatori, ad esempio io, quando ho smontato la mappa turbo, perché c'era tutta incasinata la piastra, tutto il tubo verticale era arrivato a Fabrizio proprio per costruire un'antenna verticale multibanda, perché strutturalmente è un'antenna eccezionale, quindi tutta la struttura verticale è molto molto robusta, capito? È per quello. Vai, vado a portare il cane. Adesso mi ha mandato un messaggio. Ammazza che sta nascendo. E a te riscende la mano. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Sì, Marco, in linea di massima comunque. Hai capito chi è, dai. Va bene, ci sentiamo dopo. Riprendi Gianfranco. Sì, poco fa ho ripreso. Peccato che Roberto. Non ho premuto il microfono. No, un altro. Niente. Ah, ok. E adesso ho visto che un po' tutti stanno facendo i lumpi con i nuovi prodotti, bisogna sempre stare più attenti, la qualità di una volta ce la sogniamo, tutto in versione consumistica, quindi c'è poco da fare. Ma comunque mi sembra che la fanno da Sigma, Mantova Turbo, 127 euro non esaurito. Navic online, qualche cosa forse si trova, ma se mi dite che è fallita anche quella, chissà che c'è rimasto. La Sigma non è stata più facendo antenne. Magari fallita no, ma forse non c'era il tanto, poca utenza. Luca, ci sei, riprendi? Luca, c'era anche Luca Manicomio. Ecco, stavo andando, non so dove. No, io sto uscendo, ciao, dopo, ciao. Ciao, è lungo. Comunque già, c'è antenne, ce n'è, se la vuoi leggera, c'è leggera, anche della Sirio, c'è questa vecchia, Vector. Scusami già, ho sbagliato, ce n'è una leggera che però ha la bobina tipo Mantova, non è male come aspetto, se non metti prendi l'ex Salyut, ti ricordi la Salyut, si chiama Vector 4000, quasi 9 metri di antenna, e però è una tre quarti d'onda quella, Gianni. Ottavi leggera, se non c'ho quella lì me la prendo come la tua e basta, non me ne fotti nulla, vado alla GBC e me la compro. Già, però tiene pochi watt, non è performante come quelle grosse, tipo l'Auto 27, tipo la Mantova. Ma tu la conoscevi la Salyut, quella tre quarti d'onda enorme, quella che c'ha un cerchio a una certa altezza, è quasi 9 metri, però tre quarti d'onda, dovrebbe sparare alto quello, c'ha un angolo di irradiazione un po' alto, un bel alto, non sbaglio Gianfra? No, quella non la conosco, questa Salyut non ce l'ho presente, però volevo dire, se vuoi una cosa che ti duri 100 anni, ci sarebbe, ed è anche abbastanza semplice, la famosa canale a pesca. Canale a pesca nel senso che ci sono quei tubi, no? Io tra l'altro c'è uno di 12 metri addirittura, che si piega, ma si piega anche un bel, però il vento non le può fare niente. Quella è a prova di venti proprio oltre 150, 180 km all'ora, anche se vuole fare. Ancori ci fai lo stesso schema lì della Game Master a dipolo e non c'è problemi, ti dura, certo si piega e quindi quando c'è molto vento qualche problema te lo dà, però poi non scende neanche a ruccio quella. Torno subito. Che tubo è questo Gianfranco? Non ho capito bene se è un'antenna o se è solo il materiale esterno. E io ci potrei mettere quello interno che c'è nella Game Master. Guarda, come costo è molto elevato, perché sono fatti proprio per fare antenne. È un tubo praticamente una canna da pesca, immagina una canna da pesca, però rigorosamente in vetroresina. E si allunga di parecchio, no? Credo che siano un metro e mezzo a sezione, inizia con una sezione molto molto grossa, veramente grossa, per arrivare fino al famoso stilo. Ed è quella che ho io, 12 metri esatti, la usavo in HF e funzionava anche in 160 metri. E ce l'ho ancora, c'è ancora il tubo che adesso ho messo al riparo perché era fuori e stava prendendo tanta acqua, però non le fa un tubo. La fissi e si vede anche poco perché alla fine, benché sia altissima, a distanza è mimetica, credo che sia un prodotto militare. La faceva, chi era? La faceva, l'ho presa, non mi ricordo adesso chi era, PMK forse, una cosa del genere, boh. Però è micidiale, non contiene carbonio, quindi è totalmente vetroresina ed è micidiale quell'antenna, quel vetroresina, perché in realtà è un tubo, poi l'antenna te la fai tu. Vabbè, l'antenna ci metto quello che c'è all'interno della Game Master e sono a posto. Basta che sia 8 litri, a me mi serve 8 litri. Il cavo è lungo 8 litri, ci metti il cavo della Game Master all'interno e fatto io. Sicuramente. Quanto è alta la Game Master? Io non me lo ricordo più. 7 litri. Quindi basta toglierci le sezioni più lunghe che sono troppo fini per quel cavo. E se a posto ci togli una sezione da un metro e mezzo, a voglia, ne puoi togliere in quel caso se da 12 metri, ma sai che non mi ricordo più dove l'ho presa, un tipo di adesso, ah no, adesso me ne vado a mangiare, non mi ero accorto che sono le 7:30, quindi è così, ma io penso che si possa, guarda, se tu conosci qualcuno di quelli che fanno barche, ti prendi un foglio di vetroresina se danneggiata e la rifai, cioè con la specie di, adesso non ricordo come si chiama, aggrappante o colla, boh. Io passo intorno, le metti un foglio di vetroresina e quelli che si piegano, oppure lo vernici direttamente e non si muove neanche a roccio più. È lo stesso che si utilizzano per le barche, capito? Sì, sì, sì. C'è quell'induritore che si mette in mezzo. Sì, non usate la vetroresina. Avevo tappato dei buchi che c'avevo nella 500. Mi si erano formati 500 tipo vecchio, ti parlo quando ero ragazzo. Dietro, nel finestrino attorno al finestrino di dietro, si era fatto un buco e si stava marcendo. L'ho tutto quanto bene levigato. Ne ho messo la vetroresina e poi l'ho levigato di nuovo, l'ho fatto quasi alla pari con la carrozzeria e poi l'ho verniciato, ma non si vedeva nulla, era tenuto a go-go. Sì, infatti, per quello che ti dico che a differenza di altre antenne, se ti si spezza una d'alluminio sei quasi fregato, perché devi fare tanti pasticci sono tutti i pasticci metallici e poi c'è anche il problema della conduzione, quindi siccome c'è un pezzo di filo che praticamente dovrebbe durare anni e anni e anni senza conseguenze, ce lo butti dentro e sei a cavallo, quindi non è... Se poi vuoi una cosa che proprio ti duri anche in caso di cicloni, tornado, eccetera, eccetera, ti procuri due o tre tubi di quelli che usano nei surf, no? Con il vetro resina, che sono anche pesantucci tra l'altro, il più lungo possibile, ce lo butti dentro e lì ci sta, perché ne ho due io che fanno proprio da supporto d'antenna, e quelli veramente non li distruggi. Te ne dimentichi che c'è un'antenna. E adesso vediamo come si può aggiustare, dai. Se si può aggiustare con la vetroresina, lo aggiustiamo con la vetroresina. Ma io sono del parere di metterci un pezzo di tubo lì nella giuntura dove si stava piegando. E poi non è piegata molto, capito? È un po' piegata, ma non è che sia a terra, eh. Infatti è una cosa strana, perché quel tipo di antenne o si spezza e comunque si cura. Il vantaggio principale che c'è rispetto ad esempio alla mantopa 1 è che se non fa il giochetto che ho fatto io, di metterci un cavo dentro, quando ero in condominio per intenderci, se la volta era spezzata, cadeva giù e faceva danno, era un casino. Capito? Se succedeva qua non me ne frega niente perché è tutto mio, quindi macchina non ce n'è, ho fatto la mia, ma è lontana. Però vedi, se ti capita con la Game Master, in ogni caso il pezzo rimane attaccato perché c'ha dei fermi, credo, anche su, quindi l'antenna comunque non può provocare danni perché rimane appesa in qualche modo. Mentre mala sorte la mantopa 1 lasciata così a se stessa, nel caso si spezzi sono dolori, sia quella lì sia tutte le altre di quelle dimensioni così pesanti che si spezzano e cadono a terra in testa a qualcuno magari, perché la legge vuole che se qualcosa ti cade dal terrazzino sotto c'è qualcuno pronto a beccarselo in testa. Infatti ho messo quella Game Master, uno per le cornacchie perché mi rompevano sempre il radiale, ho cambiato 2 o 3 volte e sempre mi rispezzavano, e 2 proprio per la paranoia che avevo ogni volta che c'era vento, la paranoia dell'antenna. Ogni tanto me ne veniva quello che abita su mansarda, veniva con il radiale in mano, guarda, mi è caduto nel terrazzo dell'attico, mi è caduto questo qui nel tuo, e se è dato il radiale me ne regala. Allora andavo, lo compravo nuovo, dai, lo facevo su misura uguale agli altri, rimettevo tutto, il cappuccetto davanti, tutto quanto, fatto bene. Però me lo troncavano sempre, perché come spiccava nel volo, gli ho messo anche la lenza, quella per i grumi, per tenerli i radiali, ci abbiamo fatto con Luca. Eppure me l'hanno praticamente spezzato lo stesso, la lenza è rimasta attaccata al radiale e il radiale me l'hanno spezzato, deve essere che hanno volato di lato e me l'hanno rotto lo stesso. Purtroppo è così. Tu figurati che l'altra settimana ne ho trovato non una ma 2 che hanno tentato, poi non ho capito il senso di questa manovra che hanno fatto, sono andate sulle antenne UHF o HF di banda, che sono molto in alto, e si sono attaccate allo stilo centrale. Io posso capire che ti appoggi ai radiali che sono in orizzontale, si sono aggrappate alla cima che è verticale, quindi la cornacchia è anche scomoda, però si è aggrappata proprio tutte e due. Io ho visto questa antenna piana, sono uscito fuori e ho detto, e che cacchio, cosa sono quei due cosi? Erano 2 cornacchie, non puoi neanche sparare perché fai fuori un'antenna. E quindi ho battuto le mani e sono scappate, meno male, però ma 2 antenne iniziano, cioè 2 cornacchie appese sono un bel peso e iniziano a farti più danno al vento, soprattutto se vanno in cima. Oh Gianfra, io se non l'avessi visto non ci avrei creduto. Quando era vivo la volanima di Torelai, che abita proprio di fronte al mio palazzo, io affacciandomi vedevo praticamente il suo tetto. Beh, una volta sull'antenna sua, questa cornacchia, se non l'avessi vista, ti ripeto, non ci avrei creduto, si è messa a pancia in alto questo radiale e si dondolava. È stata roba di 10 minuti o un quarto d'ora, sempre dondolandosi sul radiale, perché stava a finire che glielo spezza quel radiale. Con tutto il peso, praticamente, si lasciava andare e si dondolava. Sì. Fanno casino, grande. Stranamente ho notato una cosa invece, che i dipoli che sono molto molto più grandi, sono 80 metri di cavo praticamente, ce ne sono 2 da 80 metri, quelli lì sembrerebbe che non interessano, cioè il filo è troppo fino e quindi non ce la fa ad agguantarlo. Gli uccellini sì, quelli piccoli, ma non le fanno niente. La cornacchia di lì non ci va. La paga puttoia. Casino, Un bel casotto. Purtroppo vento fa queste cose, ti rovina le... Cazzo, 10 mesi ce l'ho, ce l'ho da gennaio dell'anno scorso. L'abbiamo pensato a gennaio con Claudio. Comunque non è giusto anche già questa cosa, che queste antenne ce le fanno pagare un bel soldi prima di tutto, ti garantiscono resistenza assurda al vento e poi si rompono per un vento anche non troppo forte. Cioè, allora la garanzia cosa vale se non ti garantiscono la robustezza? Bisognerebbe documentare la velocità del vento con l'anemometro da qualche sito. Solo che loro furbi, non te la coprono secondo me in garanzia, proprio per le cose atmosferiche. E grazie, allora cosa mi garantisci? Se non mi garantisci la resistenza al vento, che è la cosa fondamentale secondo me per un'antenna verticale, vai già. Ti garantiscono la roba elettrica e basta loro, praticamente l'interno, se si dovesse difettare l'interno dell'antenna, l'antenna sta andando con uno, nemmeno uno in uno di stazionari adesso, è con 10 watt, quindi sta andando benissimo, il segnale è sempre lo stesso, Marco. Allora, sto usando un altro apparecchio, prova. Guarda, di solito come ti arrivo io? Sì, a questo smitter sei 9+25, come le altre volte, e credo che tu sia liscio, giusto? Sì, sì. Sì, qua è tutto a posto. Gianni, ti volevo chiedere, questa modulazione come la trovi? Come 3009? Soddisfacente? Sì, è chiara, è una modulazione normale ma chiara, limpida. Adesso sono attaccato, guarda come arrivo adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso sono 1 e 1 di stazionario. Sì, così sei 9+30, pieno, come Claudio. Ok, vai Gianfranco, riprendi. Da attaccato mi arrivi col segnale di Marco, che è un 9.23. Da attaccato dovresti essere 9.18. Da attaccato sei 9.22, comunque Marco è sempre più forte. No, aspetta. Però conta che questo non è il 3009 che mi dà 3 watt uscita filtro, questo uscita filtro me ne dà 10, sono 12, forse anche un, no, sono 13, però l'uscita filtro me ne dà 10-11, diciamo, dai, non sono 4 o 3. Copiato? Vabbè, ma io ne ho 100, non 12. Poi utili sono 10, e trovato il filtro mi ruba bene o male il 20% dei watt, ho notato, però io per scrupolo preferisco lasciarlo, e anche perché il capogrosso mi aveva rovinato un 3009, se ti ricordi già, mi ha risaldato dall'interno quella scatolina in alluminio che praticamente è il filtro anti-TVI, capito? Come faceva trazione, piano piano l'ha rovinata. Ha rovinato poi quella scatolina era tutta saldata, elettrosaldata, io non ho capito come avevano fatto a chiuderla, insomma un casino era da rimettere a posto. E allora l'ho bypassata, però questo non voglio che abbia lo stesso problema, per cui uso il cavo fino e il filtro interposto, capito? Per quello che io li odio i cavi grossi, anche perché ti muovono gli strumenti, gli apparecchi, li ho avuti anche i cavi grossi, ma non mi piace, li ho provati tutti subito. Gianni? Allora, buonasera a tutti comunque, qua fai 9.15, 9.20, sei calato, prima era 9+30 da me. Vabbè, non so, c'è un'antenna, ho un'antenna coricata. Va bene, dai, era giusto fare così, dai, ero di sfuggita qua. Vi saluto a tutti, dai, riprendi Marco e vi saluto, ciao. Ciao, bulldozer. Ciao Massimiliano, dopo tanto, cerca di entrare più spesso, che siamo in pochi sempre. Meglio pochi e buoni. Vabbè, dai, quando puoi entra, già siamo qua, se qualcuno lo trovi sempre qua. Vai Gianfranco. Sì, ciao Massimiliano, buona serata. Alle prossime, anch'io scappo via che sono le 8:15, quindi vado a cenare se ci riesco. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao a tutti gli altri che sono in ascolto. Alle prossime. Ciao, ci sentiamo Gianfranco, io ho già cenato, quindi alle 8 c'è da portare il cane e poi sono libero. Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. dai, le prossime. Comunque già quando succede così, per me, se fosse per me, sarebbe una rottura di balle immensa, perché ogni volta devo andare a fare il pellegrinaggio in terrazzo e i vicini sempre sospettano, chissà cosa sta mettendo, salgono a fiaggare, come mi pare che ti è successo più volte, che salivano a fiaggare mentre lavoravate, cioè che palle, guarda. Sì, sì, è vero. Vabbè, dai, speriamo di risolverla bene domani, che magari sia qualche cazzata. Io mi auguro che non si sia spezzata, che sia solo qualcosa di mollato da stringere, da fare, e entrare un po' di più il coso, perché il cavo non va messo in tira, perché l'ho letto io nel dépliant, va messo in modo che sia, che non sia troppo in tira, c'è scritto, di modo che quando flette non strappi, perché se troppo in tira, come si piega, si spezza il cavo. Esatto, esatto. Nelle istruzioni mi pare specificato proprio quello, non va messo in tira, deve essere leggermente lento, comunque non teso. E mi sta venendo il dubbio già, che davvero non ci siamo lato dove c'è il giunto, no? Che si sia come tolto l'elemento proprio più alto del tubo di vetro regina, quello che è PVC, e che non sia il cavo che te lo sta tenendo. Cioè il cavo stesso interno, il conduttore vero e proprio ti sta tenendo, già hai capito cosa intendo, no? E quindi adesso potrebbe essere in tira, però tira oggi, tira domani. Infatti prima lo fate, prima agite, meglio è già, se no rischia di fare più danno. E domani mattina, se non hai niente da fare, mira che tu, non c'è problema. Io già sarei venuto, è che, diciamo, da dirla tutta, non vado molto d'accordo con le altezze, anzi proprio niente. Non vai d'accordo? Con l'altezza, con le altezze. Anche qua quando c'era il Pupunio ero puntellato io, ero con le mani in testa, perché lui è salito sul gabbiotto per salire l'antenna, io ero già con le mani in testa, scendi, scendi! Anche poi il gabbiotto che c'ho io è brutto, perché poi c'ha la discesa e rimane tipo come un tetto, capito? E rimane, c'è il pezzettino per la fuori e poi dall'altra parte c'è la discesa che ti butta verso giù. Esatto, esatto, anche qua c'è, a un lato del gabbiotto, al lato strada, c'è una discesina. Ho detto, metti che Antonè, metti che ti venga un capogiro, un qualsiasi cosa, rotoli lì e finisci strada, proprio fai il volo. Sai, poi un capogiro, che ne so, i fumi dell'alcol, che ne so. Ma la mia si può, guarda, abbassi il tubo e si allenteranno tutti quanti. Antonio, tutti quanti tirati, tutto quanto, ma se il tubo e sfili l'antenna, sviti il piede, sfili l'antenna, sei a posto, non è che devi fare chissà che cosa. Vediamo adesso, dai, vediamo qua in casa com'è la situazione. Ascolta, cosa ti volevo dire? Comunque vabbè, in alternativa non mancano le antenne già, non mancano, ci sono leggere, meno leggere. Questa, ridendo e scherzando, c'è da 6 anni, l'avevo messa nel 2014, a marzo tipo, no, o maggio, credo comunque maggio, e quindi sono 6 anni e mezzo, no, 6 anni, vabbè, grosso modo arrotonda. Non credevo che durasse, io secondo me non durava più di 2-3 anni, vedo che ancora tiene, nonostante sia una cinese, mi già lo sai, questa Energy è fatta in Cina, praticamente è la copia della famosa, come si chiamava quella della Intec, la BA27L, è presente, stessa cosa, solo che la bobina è a vista ed è coperta da un tubicino di policarbonato, presumo, e quindi finché è nuovo il tubicino vedi la bobina. Comunque io l'ho stagnato tutto e ho stagnato col vulcanizzante, ho isolato tutto quello che si poteva isolare, naturalmente il forellino di scarica della condensa che c'è alla base dello stilo, quello va lasciato libero in modo che defluisca la condensa all'interno dello stilo, quello sì, però tutto il resto, anche il PL me l'ho tutto isolato malamente con col vulcanizzante fino al capo, proprio il capo, anche un pezzettino di capo gli ho vulcanizzato, in modo che non ci sia alcuna come dire, ingresso di umidità, capito? Sì, e come stazionale com'è quella lì? Allora, questa come stazionale non sarebbe male, però ti spiego, io ho seguito il manuale, l'installazione, c'è una tabella, no? Con lo stub purtroppo si tira dalla punta, io ho seguito la tabella per il canale 20, invece è come se fosse il centrobanda sull'1 o sotto l'1, tipo 10-20 canali sotto l'1. Comunque ti dico già come va. Allora, sul canale 90, ti faccio terra a terra, no, la misurazione, sul canale 90 tipo 1,6. 1,6 e 1,7, sul canale 90 sotto lo stesso 1,6, capito? È come se ci avesse il centrobanda grosso modo sull'1, quindi i 180 canali te li tiene come niente, anzi ti dirò di più, stazionaria 2 ti tiene anche più canali, cioè tipo il 100 sopra, il 100 sotto, capito? Che poi non si usano, quindi si usano i 40 al massimo, sai, il 45 e la tripla 5, quelli là, fra un po' ci vieteranno anche quelli di usare, così siamo a conti. E ripeto, la tabella che ti danno loro, Gianni, è molto relativa, perché influisce sicuramente la lunghezza del palo, no? L'altezza dal suolo del terrazzo, presumo anche la lunghezza del cavo, perché tu dici sì, non dovrebbe influire, però vabbè, tutto influisce, la distanza dal suolo, gli ostacoli vicini anche, capito? Se c'è antenne, se c'è muri, se c'è palazzi vicini. E comunque funziona, cosa devo dire? Funziona! Anzi, aspetta, Claudio, è rientrato, funziona finché funziona, come tutte le antenne, può durare un giorno come può durare 100 anni. Ecco qua le antenne, che non temiamo nulla, non abbiamo ostacoli. Claudio, se mi fai mettere una stazione remotata, metto un'antenna mia, l'apparecchio e lo piloto tramite computer. Una stazione arretrata, no, non devo arrettare niente io. Cosa è sta arrettata, cosa è? Remotata, non arrettata. Ah, remotata, ciao Antonio. No, no, perché se c'è bisogno di arrettare non si arretta più qua. Assolutamente no, Anto, assolutamente no. Cazzo, c'è freddo invece, Gianfranco, non c'è, c'è freddo, c'è le arecce tutte accrucciupite. Allora avevo 3 quintali di mangaggia, Vivone. No, adesso ce l'abbiamo buccio, Anto. La cosa, come si dice, la cosa del bracciere va preso, no? L'avevo messo nella paletta. E ha detto, prova a baciare un babbo, va, si va in goglio, coraggio. Ma è finita, avete cercato antenne? Lanterna, come diceva mia zia vecchia, lanterna e l'apostrofo, anterna, oppure la chiamava la lanterna, la lanterna, vabbè che era vecchia, già sto parlando di 1000 anni fa, era vecchia già negli anni 80, ma vecchia tipo 90enne. E uno che conosco la chiamava l'intenna. Anche mamma l'intenna. Ma anche mamma l'antenna, quando era accesa l'antenna della TV a Porto Torres. Andiamo ad un tecnico, facciamo l'antenna, ma l'antenna, vabbè, già mi comprendo io, sì, come quando mi mandava al supermercato a fare lo yogurt, mi vedo, dillami, due yacht alla brutta, due yacht, tutti, sempre yacht, no yogurt, yacht, ma... Non abbiamo posto per mettere lo yacht, il garage è piccolo. È la patente. La patente, lui, mamma mia. E con tutto che ha fatto 30 anni, in breve al nautico, dico, fate almeno una mezza cultura. No. Non va la va. Da vendere a Movujui e Bu. La vende ancora, Movujui. Vabbè, perché chi parla il dialetto? Traduce dal dialetto all'italiano, capito? Molte volte. Minchia, ma lei era proprio, un po' si è aggiustata, ma per carità, tutte frasi un po' strane che diceva. Ebbè, Bombolino Bombolone, dove sei? Cosa già? No, a Bombolo su Cucciavente. E lei, tanto c'è freddo per già, eh? Io ho detto a Gianfranco, mi sembrava, sono uscito alle 6:30 e freddo non ce n'era. Adesso, ci canterabbi, la prossima volta mi metto la cuffia. Che mi chiama avanti, chi è che mi chiama qua? Bombolino Bombolone, mi ascolti? Ti ascolto, già va bene già, un po' più zuppa bagazza, ma già non li faccio nulla. Ehi, così da lasso, mi pare anche tu, mi pare che esco più forte così. Vero? Sono capofonente. No, domani la scendo, domani vediamo un po' che cosa c'ha. Secondo cosa c'ha, ricompro la resina, la aggiustiamo e via. Sì, buona appena il trucco, già andavo. No, già, e comunque il tubo dello stesso prodotto, dello stesso materiale, leggermente più largo, ok, e lo metti dentro, bianco, già ci sono da Bicon, i negozi di elettricità, capito? E lo metti dentro, non c'è bisogno di fare, e se no la rinforzi tutta, ne prendi una verga quanto è lunga l'antenna e lo tira con di dentro. Sì, da voi non frette e si spacca di più. No, vabbè, dai, ce lo vedo io cosa fare. Vediamo un pochettino cosa si può fare, come si può mettere un rinforzo. Se io ho un tubo a casa più largo, come stai dicendo tu, ci metto quello lì e via. Ma ricordati di spaccarlo per farlo per la fascetta, per farlo fascettare, capito? E poi magari lo vulcanizzi tutto. Vediamo, bisogna vedere cosa c'è. Io già domani non posso perché c'ho, mi fa male la schiena, tra l'altro, ma c'ho anche la visita a San Camillo, la mattina, mia moglie, io sono venuto a casa una mano, ma è una fesseria a scendermi con la roba, la rottura di balle è ritirare tutti i tiranti, però non li staccate, abbassate, poi una volta che la sollevi si rimette in tira da solo, capito già, se no è un casino. Beh, certo che faccio così, quello non è un problema, abbassi il tubo e molli l'antenna, molli il piede, scendi l'antenna, e che c'è tutto il cavo legato, tutto fatto bene, e cosa, mi gira le scarpe. Sì, già, taglio la forbice e poi metti le fascette. Ma io cosa ci ho fatto allora? La mia non era tutta finita, l'ho sfruttata da un tubo all'altro, da solo, la Mantova, quindi tutto il fatto, io ho cavo grosso, non c'ho 58, quindi tutte le fascette, tagliate, fatte, spostate, a destra, a sinistra, ho giocato un casino. Infatti già sono rimasto una settimana mal di schiena dopo. Marco Pedivella. Pedivella. Comunque già, tu che puoi, se avesse danno l'antenna, tu che puoi non mettere antenne risicate o sottili, tu che puoi tirantare, metti antenne grosse, buone, di un certo spessore, di una certa, che tengono anche flattere tra noi. Se così da voi, se ti cagli le fasi di danno, invece quella leggera sono più tranquillo, quando c'è vento con le antenne grosse c'è da avere paura. Bravo Gianni, sono Renato io. Vabbè, però la puoi assicurarmi anche come privato, lo sai? Ne provano su Roger K. Tu vai dalla tua assicurazione, qualsiasi sia, e gli chiedi, mi potete assicurare l'antenna? Casomai ti dicono di no, paghi una miseria all'anno, anche se ne gaggi pagano loro. Naturalmente poi non so cosa chiedono, se chiedono qualche certificato di installazione, quello non lo so. Chi l'ha installata, chi non l'ha installata, come installata, boh. Marco è sempre a pagare. E poi se cade addosso a qualcuno lo ammazza, non vi assicurazione che valga. Solo che allora uno l'assicurazione cosa la fa fare? Danni a terzi, non lo so, boh. Vabbè, vai Claudio. Guarda, io quando ero sociale le antenne erano automatico, perché pagando 72 euro all'anno, che poi è diventato 78, adesso non mi pare sia 80 euro all'anno, c'è la circolazione delle antenne, più la radiorevista, eccetera, eccetera. è una cosa diversa, capito? Un'associazione nazionale, quindi hai un po' un servizio generale, ma quando fai così, mica ti spendono, non è che tu paghi il poco, mamma così, lascia perdere, cosa paghi il poco? Mica noi paghiamo ogni 6 mesi, ogni torre all'anno, non 6 mesi, sto sbagliando io, all'anno, ogni torre, quindi la mia la sono io. Poi l'altra che non piani lo stesso, tutto a scendere, ogni palazzina, allora la torre è quella che paga di più di assicurazione, per danni, calamità naturale, eccetera, 2700 euro all'anno, ma bufonelli, infatti la mia quando io era sul tetto non avevo problemi, se ne cadeva, il problema è come dice Gianni, siamo ammazzato anche l'uno, capito, perché se ne cade sopra una macchina, come è già successo, che mi è caduta la si è rilanciato il gancio della carriera, è caduto sopra il cofano della macchina, l'ha scheggiato, gli ha fatto un buchettino eccetera, ha pagato il condominio, non ho pagato neanche io, capito? Quindi non è quello il problema è ammazzato uno, è diverso. Vabbè, solo che se un privato si fa un'assicurazione su una misera verticale, per dire, no? Cioè, deve coprire qualsiasi danno. Non è che mi accettano di farla e poi pagano le cagatine, no? Tipo cadere un radiale. Devono assicurare anche roba seria. Vabbè, però poi non ne fa nessuno, in effetti. Pombo, lo riprendi? Vabbè, c'è ancora, sta bene, c'è un'antenna buona, non ingaggerà mai. Non penso che succeda. Assolutamente, sono stretti bene i bulloni, non... Cioè, se è molto ancora, sta bene, non succede che ne cade. Succede di sa pazienza, è leggera questa. Tanto c'è rumore di alternata. Sì, lo so che c'è rumore di alternata. Ah, vabbè, se lo sai allora a posto. Vai già. Aspetta, sto chiamando l'amico. Mi avete un cazzo di la massa, La massa che ti rifari, vabbè. Prova a vedere, rumore alternata beava. Ma stai pompando? Ah, non sto pompando, no. Sto sgonfiando. Sei attaccato anche tu? No, non sono attaccato, no. Questa alternata non vi arriva? Sì, c'è un gatto di massa di alimentatore. Vabbè. Sì, Marco, sì. Vai, entrambi ci sono. Cioè, beh, però è questo filo che lo va a attaccare a qualche parte. Entrambi sì che già è vero, va. Già è vero. Cosa è vero? Gubumpende. Ah, perché ce l'ho per 20. Oh, comunque, mi ricordo sempre questo fatto, Claudio. Cosa? Quindi, ricorda, a parità di watt del baracchino Polgari, qua c'è 4 watt, il mio cavo è 50 metri, con la... Rubazzo! Prova. E Paolo da 6 metri, Sandro il produttore non mi sentiva, stesse condizioni, Paolo da 3 metri e mezzo solo, e la Energy, Sandro mi sentiva. C'è notta, nonostante il palo di 6 metri, con la Ringo non mi sentiva, ero nel QRM, con la Energy c'era una differenza notevole, cioè dal non essere ascoltato a essere ascoltato a Pro Torres, e quindi ho fatto non bene o benissimo a cambiarla. Poi c'era tutta mollata, mi ne stavo uscendo lo stilo, c'era proprio separato dal tubo alla base, la giovane gagia. No, ma tu c'è un segnalone, no, non ce n'è più nessuno, cioè tu lì con 4 lati ne arrivi 9 più 30, quando attacchi sei 9 più 40, sei il terzo segnale più alto. C'è Antonello che se la gioca con Roberto, più o meno sono uguali, poi ci sei tu, allucinante. Sì, ma il discorso era per la Ringolem. Cioè, nonostante sia una mezz'onda, sì, un po' raccorciata rispetto alle normali mezz'onda come potevano essere quella delle ecoantenne, rendeva poco, ma anche in città avevo guadagnato almeno un Santiago, e un Santiago sono un bel, sono 6 dB almeno, no almeno, sono 6 dB, vabbè. Questa che mi ha dato Babbo, secondo il mio parere, migliore, io sento anche di più. E infatti ho l'impressione, Oh Claudio, Antonio ha messo quella mezz'onda che aveva da tanto, è più sottile leggermente, appena appena, e secondo me è quella della Econtenne, e gli funziona anche meglio, caso strano. Cioè, secondo te è meglio questa elettrosonda adesso? Non lo so, lui dice che sente meglio, che lo sentono meglio rispetto a quella della LEM. Però sai cos'è? Qua è talmente vicino che qua non cambia comunque, che usi l'una, che usi l'altra, non cambia. Le prove forse le ha fatte in distanza, non lo so. No, non è che io sento, ho più ricezione, ho capito. No, magari il segnale è invariato un po'. Ho più ricezione, no, questo è l'EM. Però è 10 anni indietro, bisogna tornare. Perché poi l'hanno modificata, capito? Qua non cambia assolutamente non cambia, 9,15 era prima 9,15 e adesso liscio, e quando attacca è 9,20, non ha cambiato niente qua come tema. Anto, una domanda, col 747 tu dovresti aumentare di 2 Santiaghi, ma per caso l'alimentatore non ce la fa a salire da lì ampere, dovresti aumentare 2 punti esimi. Sì, già ce la fa, già, alimentatore, non ti preoccupare. Già ce la fa, già. No, perché col 203, che poi è uguale a quello, aumenta 2 punti S, cioè, hai già capito, no? 2 punti S, cioè da 7 a 9, da 9 a 9 più 10, per dire, tu aumenti solo di 1 punto S, cioè non sta dando i watt che dovrebbe dare quel lineare. Questo non te lo so dire, però... Ah, ecco, non lo so dire. Però l'alimentatore, quando attacco l'altro, ZG, va, non ne ha problemi, non ne ha assolutamente problemi. Cioè, qui su bomba, no, va e basta. Capito. Vabbè, pompa, ma i watt effettivi che ti dà, li hai misurati tanto per curiosità? Verità mai. Però dico, magari va a scoprire che anziché 80, 70, 80, anche 100, dipende dal pilotaggio, magari te ne sta dando 30, 40 solo mi. Da vedere. Luca, ci sei? Allora, il mio con il 747, quello che c'ha, uguale a quello che c'ha Gianni, pilotato con l'Elbex che c'ha la regolazione dei watt, con 5 watt modulati 6, ne dà 70 watt, da 70 qualcosa in più, non di più, capito? Sì, meno male siamo lì. E che finale monta, te lo ricordi? Grosso modo, tipo quello a croce, come si chiama? MRF 455, può essere. Marco, è originale, non l'ho mai aperto, mai visto, so solo che funziona molto bene, c'ho dentro l'armadio, lo usavo col DAC quando, prima di mettere le valvole, perché dava 2,5 watt la radio, e quindi mi aiutavo con quello. Adesso il DAC è a posto, era quasi 50, e quindi l'ho messo dentro l'armadio, capito? Perché non voglio più avere alimentatori in mezzo alle balle, assolutamente, perché qua c'è gli alimentatori di linea, gli alimentatori messi tutti dentro l'armadio, qua ci sono gli alimentatori di linea PS50, PS430, basta, la linea completa Kenwood e boh. Dall'altra parte sono tutti vintage in base a 220, alimentatori io non le sto usando. Guarda a vedere, adesso lo sto alimentando con l'altro apparecchio, com'è? Prova. 2-3 prova radio, con questo intake. Sembra leggermente più alto il segnale, confermi un attimo. Qua non si è, qua una volta arrivato a 9,30 non va oltre, qua, non cambia qua. Questo è Smith di baracchino, cosa? Ma è fatto dalla modulazione. Sì, un po' sì. Perché c'ha troppo ingresso questo apparecchio. Ma è una bomba però. È una bomba è baracchino, c'è una bomba, può uscire così non va bene, perché con l'altra la modulazione era buona, anche se perde qualche punto non fa niente, però la modulazione è molto importante, capito anche tu? L'altro giorno con chi abbiamo provato? Con con Chiesa Ruginito a Muros. Praticamente Antonio attaccato era Santiago 4 e io attaccato a Santiago 8. Naturalmente era uno Smith, credo che segnava, non ho capito bene se segnava poco, non era fedele, però cazzo, ogni differenza di segnale da 4-8. Così va meglio, dai, confermate. Però ti confermo che con l'altra radio sei più forte, superi 9,20, vai a 22 abbondante, con questa sei 20 fermo, quindi avendo più watt, quel lineare tira fuori più watt, però automaticamente ti abbassa la radio, tanto bisogna metterlo su un wattimetro e fare bene le regolazioni. Diciamo dai che devo fare una cosa. Devo buscarmi un'altra radio, perché questa la voglio lasciare così. Voglio buscarmi un'altra radio, voglio buscarmi... Quella là già va bene, ma vorrei qualcosa di più. Vorrei. Cioè, è che non me l'ha voluto dare. Abbiamo su Gicchipinni, no? O Giulia. Lo so, anche ne abbiamo già parlato. Io c'ho l'Elbex che è favoloso. È favoloso perché c'è la regolazione dei watt, quindi va da 3 watt sino a 12 watt, 12 a 15 watt, 18 modulati. Quindi quando non attacco nessun niente lo metto a manetta e quindi c'è 18 watt, e va benissimo. Quando invece devi attaccare qualche lineare lo metti a 3 watt e mezzo e lui va che mica con ara. Il problema è che questo c'ha 12 watt, c'ha. Perché se no io... non la mano, quindi mi ciuto. Stai zitto. Perché se no io qua... Era andato bene, cioè c'era stato 10 watt, anche appena, anche 8. Cazzo, con quello là avrebbe pilotato bene. Quando mi prenderò una radio leggermente migliore, vediamo, già va bene anche con quello là, con quell'Alfa Jet, però non è la stessa cosa come avere una radio buona. Io ho deciso, vedo tutta, io chi si compra tutto quanto, vi vedo tutto e non mi fai così, non c'ho più problemi. Capito, la morbo del cane. Quarantena, tu ne la farò io, gara. Io vendo tutto, vendo questo qua 100 euro, allora facciamo così, do i due Typhoon, quello modificato a Colt, questo qua, il 3009, Mobicom con questo Rose Metro, l'alimentatore che ho comprato da poco, 500 euro, do tutto, anche l'antenna alla Buma, tutto, 500 euro, io. Tutta per il Vela. Radio! Cai! E poi parli col muro. E poi parlo con Claudio. Se tu che ci vende tutto, se non le mancano le radio, le ero io una per parlare con me. Capo di Rosmetro, vai, vai. Toglietemi tutto, ma non toglietemi le radio. Io, ma cos'è ancora di venduto? Un'altra, ci vai su invece, un'altra che abbiamo messo proprio oggi. Una è partita stasera, mi ha già venduto 4, 3. 3-4, più tutte le antenne, le direttive, rotore, di butto, mi sto tenendo quello che proprio mi serve, le due linee che ho detto sono queste, con due alimentatori PS50 e PS430, quindi c'è la linea dei 430 e la linea dei 140, e lì non si discute. Perciò gli alimentatori sono tutti dentro l'armadio, quelli switching che non mi hanno fatto nulla, però non li vendo. E nell'altra scrivania ci sono tutti i 220, in base 220. Ma basta, ma lo già voi, ma assolutamente non ne faccio più di armadio pieno, certo? Ma cosa ne fai? Luca! Ehi, dai che io sto andando e tardi, se tanto ci riprendo a casa, dai, dimmi già. Ma ti è partita la telefonata, mi hai chiamato. Basta che ti ne pare, non ti arrivi forte lui. Forte però, sei guarda a fondo scala in onche. Di Luca? Lucrezia. È un bel forte, io lo ricevo molto molto forte. Tu sei a fondo scala, Ocla. Devo attenuarti per capire quanto sei di segnale. C'è un pochettino. Cazzo, ma Luca pure non scherza, dalla latte dolce. Sicuramente siamo infatti, allora, ci sentiamo dopo, ciao. Ehi, io ti rispondevo e non mi parlavi, adesso vuoi, ne faccio le bacio dal telefono. Ehi Anto, io sono convinto e così lo lascio a radio perché l'ho regolato a caldo, non lo faccio mai bucando. 20 watt ed è più che sufficiente per fare le occhiate. E poi, se dovesse capitare che c'è propagazione che cosa, aumento a 50 watt, ma non di più, non me ne affitto niente. Io non ho sollevato l'antenna e i segnali voce sono aumentati tutti e va bene così. Bene, io ho altri due passaggi, poi me ne vado a poppare che c'ho fame. Vai Marco Cattarella. Ehi, Luca, ti volevo chiedere, l'alimentatore come sta andando? Perché un giorno avevi detto che, non so, freddo, non so cosa faceva. Qua la, cazzo, qua la ricezione ha aumentato di misura. Avanti, Luca. Abbiamo parlato in due. Luca. Come hai detto? Come ti stavo mettendo il pigiama? Doveva uscire Luca, doveva andare a casa, mi pare. Comunque qua io mi accorgo anche attenuando, cazzo, la ricezione qua, io non so perché, ha aumentato tantissimo. Cioè, anche attenuando, cazzo, sì. Arrivo che mi arrivi canto Marco, quasi. Cioè, pochissima differenza. Cioè, poi vedo anche gli altri che sono aumentati un bel, sono aumentati. Sarà che per un capo nuovo, sarà che per... non lo so. Comunque qualcosa di diverso c'è, per forza. Un attimo là, io vado a portare il cane, ci sentiamo, buona serata a tutti e buona continuazione in questo. Ciao Gianni, buona passeggiata, dai, a dopo. Ciao Gianni, buona passeggiata, avanti Claudio. Ciao Gianni, ciao. Io ho già fatto. Non lo so, sto pensando a Luca, se prenderti quel telefono. Ce l'avevo, mi è sempre piaciuto quello, tanto ce l'ho anche le mie BP5 per quello, già con le connessioni sue, che ho comprato da una persona, c'è la connessione di quella radio lì. Adesso vediamo. Ci penso un attimino, quasi te lo prendo, me lo metto insieme ai vintage, io ogni tanto giro la sedia e mi faccio una chiacchierata con quella. Sa che Luca è andato, doveva andare a casa. No, Marco, lo sta dando tutto, bufonente. No, ma te forse già lo prende, lo voleva prendere già l'altra volta. Non ho ricerato io i coperti, ma anche a me l'ho portati in carrozzeria, li ho fatti 9-9 con la radio. Si può prendere per quel prezzo, quanto che c'è un bei canali, c'è 15 watt. Vabbè, è tipo l'Elbex che c'ho io, capito? C'è un po' di canali, sono a 120 canali, bande laterali, e c'è 18 watt. La stessa scheda di quella che io appena che cosa classici, belli grandi, trimeroni, belli da girare, altro che CMD. Oh, certo. Ma io perché ho fatto fuori 440, non potevo più. Ho fatto fuori, contentissimo, a tirato perché funzionate, a posto, però ho detto che questo lo faranno, e se non va più della radio, adesso che sta funzionando bene, è tutto a posto, la do. Mi è entrato questo 140 che è una favola e allora ho messo quello perché insomma 430, 140, 180 sono dei muletti, no? Non ti lasciano mai a piedi. Considerando io 430 ce l'ho 10 anni e mi è stato sostituito solo il display, altri lavori non sono mai stati fatti. Il 440 in 3 anni ho fatto 2 riparazioni, è sempre la stessa cosa, sempre cucciò, quindi basta, mi sono rotto il ballo, nel buon pareggio di finito, mi tengo il 430 al 140 per fare 27, per me è in avanza. Ehi, ma adesso che Bianconi è in pensione, chi è che li fa quegli apparecchi? Guarda, li fa Braga, per quanto riguarda un po' generale, Icon, Yes e Kevin. Mentre invece la Samsung fa solo Icom, sono specializzati in Icom, capito? Però se le mandi un tempo te lo fanno lo stesso, ma so cari, grazie, ma cari, ciu. Cioè, telefono professionale, lavoro, ma te lo fanno pagare giustamente come lavoro professionale. fatto immagini a me, io ho chiesto un preventivo per Unicom, che era praticamente il pezzo glielo mandavo io, no, il pezzo glielo mandavo io, praticamente il display, no? Perché aveva delle righine leggere, funzionantissime al 100%, non influenzavano nella digitura della frequenza, però c'erano queste righine che è un difetto che fanno i display da, mi sembra, 2,5 pollici, una cosa del genere, 2 o 3 pollici, cioè il display quello grande lì. Donandolo io mi hanno chiesto 180 euro, 180 euro per sostituirlo, donandolo io il pezzo. Arrati. Cioè solo la mano d'opera, ammazza che ebrei. Sto dicendo, so caro mentre la brinda, infatti ho detto, no, ma ci conosciamo, le cose del tu, io, ho telefonato anche da poco per vedere se mi faceva. Mi ha detto, vedi un po' se riesci a fartelo fare a Sassari, mi ha detto chiaro e tondo, mi ha detto cavolo, lo sai che sono schietto con te, il proprietario, Marco Cattaneo. E mi ha detto, sono schietto con te perché gli ho chiesto il carretto di commutazione proprio dal DL, dal 911, quello che ho fatto alla foto, dal 911 al 430, no? Perché ci fa il carretto per LC, PTT, eccetera, eccetera. Ma allora se riesci a farlo fare lì in Sardegna, Sassari, non c'è nessuno qua che fa. Perché se te lo faccio io, lo sai. Lo sai cosa? Mi devi dare 100 euro. Cazzo gli dico, la mazza che te ne vai. Cioè un carretto da un metro con 4 occhielli e un connettore 100 euro. Capito? Barrati. Vabbè. Però se fanno danno poi pagano, capito, vabbè, si spera, e poi anche chi si fa pagare un bel fa danno e non paga, chi lo sa, vabbè. Sto facendo riposare il mio carissimo amico vecchietto di Chiaramonte, avevamo telefono stamattina, no, va bene, ha detto come è un po' in forma. Mi salvo, ma vattene col tenore, radio e amplificatore, trovo a te a gratis, anche lì a lei un caffè fatto su caffetto. Eia, uia, che serata, che giornata, comunque oggi vabbè è stata costruttiva la giornata, vabbè, ho fatto tante cose anziché stare a poltrire, certo non sono abituato, non ti dico il mal di schiena Claudio, siccome c'era un po' di piatti arretrati e posate da fare, per essere stato un'oretta in piedi, mi è venuto questo mal di schiena, nemmeno il brufè mi faceva, lo sai, in ogni vivo la morfina. Marco, io sono stato una settimana che praticamente ho iniziato a fare tutti i lavori, prima mi sono sistemato l'antenna, no, avevamo già tolto le direttive, ho superato questa e quella cosa lì, poi ho visto che stavo bene, mi sono spostato la manto, ma da solo, questi tubi molto pesanti, tutti alle staffe, rimessi da una parte all'altra, l'antenna affilata da solo, per intero, spostata dall'altra parte, diciamo, non ho fatto quel lavoro lì. Poi mi è salito a testa di cambiare completamente tutta la posizione qua in stanza, no? E mi è venuto a testa di comprare la scrivania grande che ha fatto, la base grande, perché quella non è una scrivania, la base grande che ha fatto Giulio, pesantissima, che è cernerata a muro con i piedi, e l'ho tutta abbassata, eccetera. Ho fatto tutti gli spostamenti, quindi piattare il radio da una parte, spostare dall'altra, cavolo, sempre inchinato sotto sto cazzo di scrivania e di base, che ho fatto lavoro che dovevo fare dall'inizio, la verità, perché è molto più ordinato e poi sono due cose separate, non c'è niente di ammucchiato, le HF con le HF e i baracchini con i baracchini, invece prima avevo non disordinato ma comunque non era ordinato. Insomma, facendo tutte queste cose, spostamente balle varie, sono rimasto una settimana, perché ero sempre inchinato, io non posso stare inchinato molto, sono stato una settimana brufe, una settimana punture, perché l'Eritral, che è la medicina che mi ha dato proprio il copico per la schiena, perché ho ottenuto anche il busto 3 mesi lavorando, non mi vazia nulla, ho dovuto fare 6 punture di involtere ai muscoli, perché altrimenti non mi passava. Minchia, e poi la mia schiena, vabbè, è una serpentina, scoliosi, non è messa bene, non dico vabbè che poi non era un'ora, era un'ora e mezza, due, e ci ho fatto varie cose, sempre in piedi, sempre in piedi, e non riesco più a farle, non riesco più a farle. D'altronde, vabbè, il danno è fatto e me lo tengo. Poi c'entra anche l'età, il fatto che non abbia mai fatto sport, eccetera, vita sedentaria, troppo, vabbè. Pazienza. Antonio, riprendi. Mi sono uscito un attimino giù, cambia l'acqua di olive.